L'uomo gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego! pensiero, en un pensiero, nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad, en un pensiero, vive la inconchista de mí. Yeah.